Pane, burro e rock and roll, sono le 8. Con il microfono acceso è meglio, sì. Inizio della seconda ora. La tua colazione rock. Lunedì 26 novembre. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Altri 60 minuti di delirio targati pane, burro e rock and roll. Vi attendiamo come sempre al nostro numero di SMS 3351 007777. Tra l'altro ci sono parecchie segnalazioni, niente male, che andrò a leggere tra poco. Il tempo di ricordarvi che, essendo lunedì, abbiamo un nuovo film a tenerci compagnia. È una pellicola carina, una pellicola interessante, non dico nulla, vediamo se la riconoscete oppure no. Intanto restate lì, c'è pane, burro e rock and roll. Bravo, ben detto, Dolly. Se lo vuoi con forza, non è un sogno. Sei in ritardo di 20 minuti. Non ho capito, che hai detto? Theodor Herzl. Eh? Lo Stato di Israele, se lo vuoi con forza, non è un sogno. Si può sapere di che parli? Che c'è in quella gabbia? Che cosa ti sei portato in quella gabbia? Eh? Ah, è il cane di Cinzia, una specie di Yorkshire. Non posso lasciarlo a casa da solo perché mi mangia i mobili. Cinzia in vacanza a Hawaii con Marty Ackerman. Hai portato questa specie di cane a giocare a bowling? Come sarebbe giocare a bowling? Non gli ho mica affittato le scarpe. Non gli offro nemmeno la birra. Non ha preso il tuo turno, Drugo. Senti, amico, se la mia ex moglie mi chiedesse di guardarle il cane mentre se ne va in vacanza col fidanzato a Honolulu, le direi di fottersi. Perché non l'ha messo nella stiva? Prima di tutto, tu non hai una ex moglie. Secondo, è un cane da concorso con un pedigree lungo un chilometro. Non si può mettere nella stiva perché gli viene l'esaurimento e perde il pelo. Walter, questo è un cane col pedigree. Walter. Hai marcato la linea! Svegliamole le carte ai nostri radioascoltatori. Pane, burro e rock and roll è una trasmissione enciclopedica. La cultura rock, il rock alla cultura. Il rock è cultura, la cultura è rock. Le parole non sono solo quei pezzi di aria che escono dallo sterno perché spingi i polmoni, ma possono essere rock. Inoltre, l'idioma è pieno di sorprese. Quanti idiomi nell'universo? Quanti idiomi ho incontrato nella mia vita, lei non può nemmeno immaginare. Il tutto per perdere un po' di tempo e annunciare la rubrica che si chiama Le parole ribelli. Sì, gli idiomi rock della lingua italiana. Tenuta, curata e gestita da Roberto Fricantoni. Preparatevi all'idioma di oggi. Che è escremento. Bravo, bravo, bravo. Complimenti. Sì, grazie. Grazie, il livello di questa trasmissione resta sempre bello alto, Infatti, noi tendiamo alla tendenza. Sì, tendiamo alla tendenza. Escremento. E come tale ci poniamo il problema di sviscerare, etimologicamente parlando, l'espressione escremento, che deriva dal latino excremere, fare uscire col setaccio. Dunque setacciare, dunque dividere, smembrare, sminuzzare, passare al setaccio, okay. Selezionare e quindi espellere in un secondo tempo il materiale rifiutato. Per esempio, parlando dell'organismo, rifiutare il materiale sotto forma di feci. Escrementi. Escrementi, ecco. Sì, avrei tanto... mi veniva una battuta. Dica, che vedo che lei non aveva segnato. Sì. No, questa grande metafora del culo e del setaccio. Me la approfondisca per cortesia, perché mi ha incuriosito. No, da quello che dice lei, appunto, fare uscire col setaccio. E però, visto che escremento è riferito a quella roba lì che ha detto lei, c'è questa vicinanza tra il culetto e il setaccio. Certo, certo, il culo setaccio. Esatto. Molto bene. Trattiene e rilascia quello che è in più. Benissimo. Avrei tanto voluto saperlo, grazie a lei ora lo so. Grazie. È stato un piacere. pronti a tatuarcelo sul petto il prima possibile. Long live rock and roll! A cantarvelo il Rainbow, così questo arcobaleno che entra nella vostra mattina mentre l'MLM si alza al sole su Milano. Niente, è ufficiale, è una bella giornata qua a Milano. Di nuovo un saluto agli amici toscani nella nebbia. Ciao. Solo la nebbia, ciao. Roba un po' da stadio. Segnalo che in veramente tanti, quasi troppi, avete riconosciuto il grande Lebowski come film che ci terrà compagnia tutta la settimana. Fa piacere, è la prima volta che reagite così tanto al film della settimana, quindi speriamo che la nostra redazione abbia scelto un film di vostro gradimento. Ci terrà compagnia un paio di interventi a puntata da qui fino a venerdì. Ma occupiamoci di un'altra questione. C'è un tassista sparso per Milano che se ne gira con i suoi clienti e appunta su un foglietto le luminarie natalizie. Lui però il Natale lo odia, si chiama Carlo, bentornato. Io intanto mi chiamo Tino. Tino, buongiorno a tutti. Ormai questa cosa di Carlo Tabaccaio, Carla Portinaia, buonanotte. Vabbè, ma chiamatemi Carlo. No, Tino, perdonami. Perdonami, mi darò un paio di frustate dopo l'intervento. Che idiota. Aspetta, posso rifare, perdonami, eh. Certo. Si chiama Tino, odia il Natale, buongiorno. Buongiorno a tutti, io lo odio il Natale. Dopo lo rimontiamo, tranquillo, tanto non siamo in diretta, quindi possiamo. No, lo sappiamo tutti. Possiamo andare avanti così. Sì, allora, sì. Tino, non hai clienti oggi sul taxi? In questo momento no. Stai andando a prenderli, peccato, mi piace di più quando fai l'intervento che hai clienti in macchina. Lo so, anche a me, ma un giorno prometto che ve li passo direttamente. Ci inventeremo qualcosa, sì. Sì, non c'è. Senti, si avvicina questo Natale, eh? Maledizione, arriva, io non riesco più ad arginarlo. Allora, Tino ci fa sapere come vanno le luminarie milanesi. A che punto siamo? Le luminarie milanesi vanno avanti, se ne vedono sempre di più in giro, ovviamente ormai in tutte le strade della città con negozi. Sì. La novità più grossa è che da ieri le ho viste anche accese, quindi via Torino, in centro, Corso Venezia, eccetera, le hanno accese. Tra l'altro anche hanno attaccato la luce. Anch'io stamane venendo a Milano, entrando in città, ne ho viste un po', ho visto un paio di stelle cadenti illuminate. E non sono cadute, c'erano solo cadenti. No, erano appese al muro. Davvero. Tino, sei cinico, ma ci piaci così. Grazie. Andiamo di segnalazioni. Parlavamo in fuori onda di Babbo Natale appesi alle finestre. Sì, Babbo Natale appesi alle finestre, io, malgrado l'attenzione, non ne ho visti. Per il momento non ce ne sono. Guarda che questa cosa puzza di marcio, perché era un paio di Natali che andavano come il pane, il Babbo Natale appeso alla finestra. Sì, erano di modissima, io non lo so perché, ma sai che cos'è? Che secondo me, adesso con questa paura dei furti negli appartamenti, eccetera, secondo me vedere l'omino lì appeso, insomma. Ma nel senso che si spaventa. Hai paura che si attacchi, che i ladri si attacchino al Babbo Natale per entrare, tipo? Esatto, no, secondo me la gente ha paura che quello lì non sia Babbo Natale, ma sia il malfattore di turno. Esatto, non lo mettono perché psicologicamente gli fa paura. Può essere, esatto. È una buona teoria, anche se io ne ho un'altra, che tra l'altro mi è stata confermata da un paio di telegiornali del weekend. Secondo me stiamo affrontando un Natale povero. La gente non ha soldi, la gente è poveretta. Quindi anche sui babbonati, insomma, si respira un clima un po' così. E te la butto lì, Tino, essendo un Natale povero, potrebbe essere il primo Natale rock della storia. Ma assolutamente, sì, dai, facciamo un Natale tutti con il chiodo. Tino, io ho paura di dirti cosa stiamo studiando per dicembre, perché so che la prenderai male. Però ne parli. No, non ti dico niente, ne parliamo con calma. Ah, cioè, mi tieni anche in sospeso, va sì, bene. Sì, voglio solo avvisarti che ne parleremo con calma. Ma tu sappi che siamo sempre in squadra con te, qualsiasi cosa facciamo. Grazie, okay. Io con voi mi sollevate il morale. Ciao Francesco, ci senti. Era una battuta brutta anche. Va bene Luigi, ma tranquillo, non c'è problema. Alla prossima, ciao. Ciao, un abbraccio, ciao. Guarda che sono scemo a sbagliare il nome dei radioascoltatori. Questi non li sbaglio però, si chiamano Deep Purple. Ballatona da strapparvi il cuore, Soldier of Fortune. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day But I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound. Sono varie rubriche all'interno di Pane, Burro e Rock and Roll sulle quali metterei la mano sul fuoco. Alcune invece, caro Fricca, a volte ci penso, sarebbe meglio tagliarle. Lo so, sì. Ma questa è indispensabile perché è il nostro occhio, la nostra finestra sul mondo giovanile, è il futuro. Il futuro è un teppista, non è un mondo giovanile. Lo so, ma è il futuro del pianeta, dobbiamo documentarci. Il metal è nelle sue mani, si chiama Francè, ci sei? Nelle sue vene il metal. Rock and roll, pane, burro. Grazie per la sigla. Ciao Francesco, bentornato. Grazie per la sigla. Senti, dove sei? E adesso sto ovviamente nel bagno. Nel bagno della scuola. Nel bagno della scuola, ovvio, sì, sto sì, bagno. Chiaro. Senti, ma io voglio dire una cosa subito a tutte e due. Sì, sì. Ma c'è sto bambino. Sì. A scuola. Sì. Romano. Sì. Bambino romano. Ho capito, di Roma, sì. Sì. No, no, di Roma, nord di Roma. Romano, Romano. Romano, Francesco, Romano è uno che è nato a Roma. No, ma nato era Romano, Romania. Ah, è un rumeno. Un bambino un po' che parla che non si capisce. Già, è un rumeno, un extracomunitario. Romano, sì, quella cosa lì. L'integrazione, finalmente. Praticamente, sì. È fare hip hop. Rap, capito? Sì. Rap è già il romano. Sì. Ormai. In più non si capisce quando parla, no? E però non si capisce, dice, vuole fare i soldi facili, che c'ha la gang. E dice, io ti uccido, metallaro di merda. No, come? No, la gang. No, io questo non se lo... La crew, capito? No. No, questo non è bello, allora, è bello, non è fine. Stiamo intuendo la situazione, a te piace il metal, a lui piace l'hip hop, ok? Questo sì, è... ma a me minaccia. Ho capito. Allora sai che faccio, sai che faccio? Sì. Allora sai, c'hanno sti cappelli strani che boh, allora gli metto letto, sì, i topi morti nel cappello. E poi no, nel cavallo dei pantaloni che non se ne accorge, ci mette la ricotta. Guarda, Francesco, tra l'altro, meglio maneggiare la ricotta dei topi morti, che è pericoloso, tra l'altro. Sì, sì, ma secondo voi non si capisce quando parla perché rappa o perché è rumeno? No, beh, penso perché rappa, insomma. No, perché è rumeno. Dipende come parla. Se parla in rumeno non lo capirà. Ma non sarà albanese, un pochino albanese. Io non capisco, ma il metal c'ha gli acuti, urli, capisci, no? Eh sì, è vero. Beh, vabbè, certo, l'heavy metal si esprime con gli urli, giustamente. Gli urli è facile, sente me! Però Francesco, guarda, un insegnamento del rock è che è una musica libera, bisogna essere fratelli anche con quelli che non ascoltano il tuo stesso genere. Dai tu l'esempio per primo. Sì. Ah, quindi vado da lui e gli urlo le orecchie, metal! Non so se ti conviene proprio. Magari fagli sentire qualcosa, insomma. Scambiatevi dischi, documentatevi, musicassette, parlatevi. Ah, come quel, come i cosi, no? Allora gli Aerosmith avevano fatto quel pezzo con quei negri lì. No, con i Run, con i Run DMC, sì. Negri, no? Sì, erano neri, erano neri. Di colore, esatto. Si dice di colore. Francesco, negri di colore. Sì, esatto. Mi sei un filo razzistello stamattina, è questa storia, non ci piace. No, vabbè, che ho mangiato la crostatina metal. La famosa crostatina metal. Dai, Francesco, comunque l'importante è un po' resistere. Aspetta. Yo, fratelli, motherfucker. Francesco, fratelli, del ghetto, difficoltà del ghetto. Ma se stai facendo il repettone, Francesco. Zitti, sta arrivando la gang dei romeni che se vedono mi ammazzano. Ah, ti stai adattando. Io, motherfucker. Nascondi il chiodo, Francesco, che ti picchiano. Io sono con voi, io, motherfucker. Io. Ciao, Francesco. Quando te la vedi brutta, scappa. E allora corro, ciao. Scappa. Come al solito, cade la linea, speriamo non lo prendano questi bulletti della scuola. Siamo con te, Francesco. Basta mobbing, basta con questi fenomeni da bullismo, basta! See you. Caro Frick, in apertura del test attitudinale le chiedo se gentilmente può dar voce alla chitarra che ha dentro di sé e ci aiuti a ricordare Purple Haze di Jimi Hendrix. Il tutto per far sapere a voi amici là fuori che quest'oggi nel test attitudinale parliamo per l'appunto di Purple Haze. Classicissima canzone di Jimi Hendrix. La domanda di quest'oggi è breve, ma chissà se lo sapevate oppure no. Ci riferiamo al titolo Purple Haze. Abbiamo scoperto, la nostra redazione scopre, che originariamente Jimi Hendrix non l'aveva intitolata solo Purple Haze, ma in un altro modo. Sì, vediamo, sì. Vediamo tre ipotesi e vediamo se azzeccate qual era quella giusta. Vediamo qual era il titolo completo. Ipotesi A: Purple Haze, Jesus Saves. Hai capito? Oppure ipotesi B: Purple Haze, Abruzzo Haze. Oppure ipotesi C: Purple Haze and the Magic Grace. Qual è il titolo che Jimi Hendrix originariamente aveva pensato per Purple Haze? Il primo, il secondo o il terzo? La risposta, come al solito, ve la diciamo tra poco. La soluzione, a dopo.